Effetto Mondo. Eccoci qua con Giulia Crivelli. Ciao Giulia, buongiorno. Buongiorno. Allora, riprendiamo il filo del racconto sull'impeachment, perché comunque questa è una notizia, abbiamo già detto tante volte, che va seguita. Insomma, sì, è l'apertura per darvi l'idea del Wall Street Journal, perché sono le ultime 16 ore, inizieranno tra poco, in cui i senatori hanno diritto di fare domande agli impeachment managers e tra l'altro le devono fare su dei cartoncini, è una procedura molto farraginosa, su dei cartoncini con 5 righe, poi le vengono lette, perché loro non possono parlare, ricordate, se no potrebbero rischiare il carcere, e quindi queste domande vengono fatte. C'è stato prima, ieri, e anche di questo parlano i giornali americani e non solo, l'intervento di Alan Dershowitz, l'avvocato diventato famoso, lo ricorderete, anche immortalato nel film Il mistero von Bulov. Chiamarlo azzeccagarbugli non rende l'idea. E sentiamo, perché ormai c'è anche la satira su questo processo di impeachment, sentiamo come l'ha raccontato l'intervento di Dershowitz Trevor Noah, che è uno dei, lui è il protagonista di The Daily Show ed è uno degli show più seguiti, un po' un Striscia la Notizia ma un po' meno di denuncia e un po' più così di vera satira anche politica. Sentiamo questo brevissimo estratto. Ladies and gentlemen, we have finally arrived. First it was, there was no quid pro quo. Then it was, maybe there was a quid pro quo. Ecco, questo dice, insomma, alla fine lui dice, vi ricordate, no? All'inizio si negava che ci fosse stato il quid pro quo tra Trump, gli aiuti all'Ucraina legati all'inchiesta sui Biden. Poi siamo passati alla fase, forse c'è stato un quid pro quo. Adesso Alan Dershowitz, nel suo intervento, veramente chi lo volesse seguire lo faccia, ha detto, sì, effettivamente c'è stato un quid pro quo, però era perché il presidente faceva comodo così, ma testuale, faceva comodo così per la rielezione. E quindi insomma Trevor Noah dice, ma qui siamo, appunto, ridiamoci, perché ciò nonostante, secondo quanto scrive il Wall Street Journal oggi, è molto improbabile che ci sia poi la famosa fase di chiamata dei testimoni. Ecco, invece, siccome ci accusano, cambiando argomento, no, di sopravvalutare l'allarme del virus, di parlarne troppo, di che c'è troppo clamore mediatico, siamo solo noi, te l'ho già chiesto qualche giorno fa, italiani, o no, ne parlano anche gli altri? Sì, assolutamente. I più preoccupati sono gli inglesi. Quasi tutti i giornali, compreso il Guardian, hanno tre notizie sostanzialmente. Il virus, perché è ufficiale, saranno rimpatriati i britannici e avranno 14 giorni di quarantena e probabilmente non in condizioni, insomma, non particolarmente favorevoli. Da noi si parla di una caserma, invece in Spagna il País scrive che probabilmente ci sarà un ospedale dedicato a queste persone. Mi viene da dire, meglio loro che noi, sì, perché caserma davvero, non è il massimo. Non è proprio però il massimo. Tra l'altro è già stato specificato dal Ministero della Salute spagnolo che con tutte le protezioni necessarie queste persone comunque potranno ricevere visite da familiari o conoscenti. Il China Daily titola sulle parole che ha detto ieri il presidente Xi Jinping: la nazione ha intrapreso una serious battle, una battaglia molto seria. Nel Regno Unito si parla molto anche dei tagli alla BBC, questa non è sicuramente una buona notizia, però è una delle promesse sostanzialmente di Johnson, quindi 450 posti di lavoro che se ne vanno per risparmiare 80 milioni di sterline. E poi invece Johnson, quindi taglia alla BBC, ma ha confermato i fondi al HS2, che sta per High Speed 2, i treni ad alta velocità, con parere sfavorevole del suo cancelliere dello scacchiere, ministro delle finanze, che dice, indovinate un po', non ci sono le coperture. Allora, c'è un ascoltatore, Giulia, ti riporto alla notizia, sì, sull'impeachment, che chiede a te proprio, perché gli americani usano quid pro quo per intendere il doubt des? Una volta ne avevamo parlato, perché per loro appunto il qui pro quo, se va a vedere su internet, sui siti di, non su Google, ma non su Wikipedia, ma sui siti di etimologia latina, sì, e in effetti dal latino abbiamo, a seconda dei paesi, mutuato queste due espressioni per il famoso quid pro quo, perché quid pro quo è latino corretto, cioè vuol dire qualcosina in cambio di qualcos'altro. Qui pro quo invece significa intendere qui per invece indicare quo, quindi è una cosa diversa. Perciò si possono, insomma, loro hanno abbracciato il quid pro quo anziché il do ut des. Hanno fatto questa scelta linguistica. È bizzarro come il latino venga poi, usato diversamente, appunto, dai diversi paesi. Invece, forse in Francia ci sono notizie che riguardano delle prossime elezioni amministrative. Sì, molto interessante. Le Monde, anche lì avranno una tornata. Scusate, le Figaro, anche lì avranno una tornata di elezioni amministrative, a partire naturalmente dalla quelle per il Parigi, per scegliere il nuovo sindaco di Parigi. L'ecologia sarà al cuore della battaglia per le elezioni municipali, tanto che c'è persino un editoriale: andiamo verso una generazione da non definire più Z, X, Y, baby boom, millennial, ma una generazione clima. Questi saranno i giovani che magari ancora oggi non votano. Che però insomma ci sono quasi. Sì, posso darti un'ultima curiosità? Che con Carlo avete parlato di sport. Domenica c'è l'evento sportivo più famoso degli Stati Uniti, il Super Bowl. E sapete che oltre allo show di mezzo dell'intervallo di metà partita ci sono questi spot di 60 secondi massimo, costano tantissimo, 10 milioni l'uno, 10 milioni di dollari. Trump e Bloomberg ne hanno comprato uno ciascuno. Non è un caso. È la prima volta che sono quelli che se lo possono permettere. Esatto. Quindi diciamo un anticipo di quello che potrebbe essere un confronto insomma, tra Bloomberg e Trump. Grazie Giulia, abbiamo finito il tempo a disposizione, giusto? Sì. Allora è tutto, noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14, poi naturalmente domani con l'ultima puntata della settimana di Effetto Giorno con Jacopo De Franchi in redazione, Roberta Fisani in regia. Ciao, buona giornata.